bislacco, sfasato, distratto, suonato da te. Questo rock molto matto lo sai che cos'è, e la prova chiamo solo te. Perché sei una ragazza abitata così, e ti manca tutti i venerdì. E perciò sai che fo, per amore del tuo amore tutto matto diverrò. Il tuo matto guinzaglio son pronto a portare, se soltanto me lo chiedi tu. Sono pronto a votar con un mestolo nel mar, se bagnarti non ti vuoi di più. Ma però no, dir no, altrimenti all'infinito questo rock ti canterò. Fasato, distratto, suonato, va!